Per comprendere il presente spesso occorre dare uno sguardo al passato. È il caso del nudo integrale, o del monokini ormai di moda sia nelle spiagge sia altrove. E, sempre stato così, come si è arrivati a non coprire quasi più un centimetro di pelle, femminile, ovviamente? Tutto è partito circa 50 anni fa, quando Brigitte Bardot lanciò la moda dei bagni di sole a seno nudo in un celebre hotel di Saint-Tropez. Ma l'articolo 726 del Codice Penale italiano punisce con un'ammenda chi compie atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico e aperto o esposto al pubblico. E il punto è, quando si tratta di indecenza, dove è il confine tra i comportamenti leciti e comportamenti che rientrano nelle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza? Un ministro dell'Interno ha dichiarato: risulta evidente la complessità di una direttiva che richiederebbe un'univoca definizione del comune senso di pudore, concetto mutevole nel tempo e di stretta elaborazione giurisprudenziale. Il tutto in Italia è partito nel 1952, quando si è ritenuto valido il divieto di usare lo slip in pubblico nei pressi della spiaggia, poiché è contrario ai rapporti di civile convivenza e specialmente di compostezza. Gli audaci due pezzi femminili erano giganteschi, ben oltre l'ombelico. Nel 1968 la Suprema Corte affermò reato farsi fotografare indossando un bikini di ridottissime dimensioni in una pubblica piazza, a nulla rilevando l'aspetto fisico o la maggiore o minore avvenenza. Sul buon costume intervenne la Corte Costituzionale cancellando la norma che vietava l'inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di corrispondenze o di avvisi amorosi. Nel 1969 la Cassazione ritenne violazione all'articolo 726 del Codice Penale la palpazione degli organi genitali in luogo pubblico come gesto di scongiuro, giacché l'atto è contrario alle regole e al sentimento di compostezza verso i consociati. Nel 1971 i supremi giudici precisarono che per il comune senso del pudore occorre riferirsi all'uomo medio italiano che, nell'attuale momento storico, vive nella grande e nella piccola città, nelle regioni del nord, in quelle del sud, senza occuparsi o preoccuparsi di quanto avviene in questo campo in altre parti del mondo e in alcuni particolari ambienti del nostro paese. Nel 1972 gli ermellini del palazzaccio dichiararono atto osceno e non atto contrario alla pubblica decenza l'esibizione in luogo pubblico degli organi genitali. Mentre nel 1977 la Cassazione definì il pudore nuovamente come reazione emotiva immediata e riflessa di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali tendono a svolgersi nell'intimità e nel riservo. E arriviamo al 18 novembre 1978, quando fu emesso i nomi delle due ragazze, Maria Tafani e Maria Olintia Coretti, sono destinate a passare alla storia. Nella motivazione si legge: la nudità integrale non può apparire discreta, appunto perché consapevolmente illimitata e volutamente estesa fino all'estremo, ed integra un comportamento tipicamente invericondo. La mancanza di gesti lubrici e di movenze lascive che esaltino la sessualità può tutt'al più escludere l'oscenità, ma non che la sconvenienza della esposizione alla pubblica vista dei genitali e delle parti vergognose del corpo. Ed è certo che l'integrale nudità dei corpi, specialmente se realizzata in località aperta al pubblico ed affollata da adolescenti, viola il principio di costumatezza garantito dalla Costituzione ed assistito dalla sanzione penale. Nella sentenza si affermava che la nozione di decenza è più ampia di quella del pudore e comprende gli atti sconci, turpi e disgustosi, quelli non più che sconvenienti al senso morale e quelli che contrastano con le più elementari regole del garbo e di scostumatezza. Il 30 aprile del 1980 passò alla storia la giovane Cinzia Cappellini, è la prima in monokini ad essere assolta con formula piena dalla Cassazione. Ma il 6 maggio 1983 la Cassazione cambia stranamente idea sul monokini e emette questa sentenza, sia al seno nudo ma solo con il voto decisivo dei bagnanti. per la Corte deve essere dimostrato che l'ostentazione in pubblico del seno femminile non è più reputata manifestazione di indecenza. A sorpresa, appena 10 giorni dopo, la Cassazione bocciò di nuovo il Monachini. L'esibizione su una pubblica spiaggia del seno femminile, che ha indubbia attinenza con la sfera sessuale, produce di certo un sentimento di disagio, di disapprovazione dell'uomo medio. Si precisò poi che prendere il sole a seno nudo in spiaggia è reato anche nell'attuale momento storico, malgrado l'evoluzione del costume avutasi negli ultimi tempi. Nel 1997, invece, la Suprema Corte dà implicitamente il via libera al Monachini, mentre nel 2006 la Cassazione conferma che è reato la tintarella integrale in un parco, ma non nei campi dei nudisti. Questa alternanza di lecito e non lecito in merito al seno nudo femminile dimostra come sia difficile comprendere quando si verifichi un atto lesivo del comune senso di riserbo e costumatezza. Ma perché questa gara a denudarsi anche in pubblico? La causa principale è la TV, nella quale vi è un continuo sdoganamento del corpo. E se per televisione è possibile vedere corpi sempre più nudi, perché non vederli anche in spiagge affollate? Se il governo permette certe scene per televisione, perché non riproporle nella vita quotidiana? Qualcuno risponderà che è questione di libertà, ed estate andare in topless non è solo libertà ma anche salute, perché meno, sempre secondo alcuni, meno prendere il sole integrale fa bene. Ma occorre essere onesti. Trattandosi di pochi centimetri quadrati, in più o in meno solitamente centimetri superiori e raramente inferiori, meno non fa nessuna differenza. Il sole fa bene o male secondo la durata dell'esposizione e non se nulla riveste il corpo. E poi, la mia libertà termina dove inizia quella del prossimo, e questo lo sta dimostrando la legislazione italiana. Parlando di oscenità, di pubblica indecenza, di compostezza, di rapporti di civile convivenza, di esposizione vergognosa del corpo, di principi di costumatezza, che si parli di atteggiamenti sconvenienti al senso morale, o di contrasto con le più elementari regole del garbo e di scostumatezza, significa utilizzare espressioni che sottintendono una prevaricazione della libertà del prossimo. Certo, è vero che la morale cambia e ciò che era sbagliato una volta ora non lo è più meno. Per questo il problema morale dell'esposizione del corpo umano sarà sempre presente. Meno, ma è anche vero che per forza di cose ci deve essere un limite, altrimenti tanto vale che si vada tutti svestiti. Ricordo ancora che negli anni 50 la morale pubblica era rigidissima e ogni centimetro di pelle femminile veniva pudicamente ricoperta. Il regista Fellini nel film La dolce vita inserì, pari pari, la sequenza dello spogliarello di una ballerina turca che fu oggetto di scandalo che si trasformò in affare di Stato. Alla prima milanese il regista venne fischiato e insultato dall'opinione pubblica, più conservatrice, e a gran voce chiese che il film venisse sequestrato. Ma in seguito il film ottenne un successo strepitoso e conquistò un Oscar per la creazione dei costumi. Perché ricordare queste cose? Perché, come si è detto, per comprendere il presente è necessario non dimenticare il passato. È necessario ricordare cosa si è detto in merito all'esibizione della pelle femminile, cosa si è fatto e l'opinione che ne avevano gli italiani. Vi era certamente una morale diversa da oggi. Quando si parla di morale devo confessare la mia instabilità, perché anch'io, meno senza rendermene conto, sono condizionato dalla mia cultura. Proprio perché vi è questa instabilità, come cristiano traggo dalla parola di Dio i principi morali per ogni interrogativo, anche per quello che riguarda l'esposizione del corpo femminile. Per alcuni sembrerà incredibile, ma la parola di Dio non è solo attuale, ma anticipa ogni problematica che si pone l'uomo. Così si esprime l'Apostolo Paolo in merito alle donne. Le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Un terametro 2.8.10. L'Apostolo Paolo usa solo 3 termini per definire quanta pelle la donna possa scoprire, mentre nella legislazione italiana sono stati usati varie espressioni che alla fine sono opinabili. Secondo Dio, dunque, la donna deve vestire prima di tutto in modo decoroso, che la traduzione francese rende in maniera decente, mentre il latino parla di velecondia, cioè pudicizia o compostezza. Ma come interpretare queste parole? Non sono forse anche queste opinabili? Può anche darsi, visto che le parole oggi non hanno più significato. Ma, se vogliamo dirlo, le donne sanno come devono vestirsi e svestirsi, anche in spiaggia. Ho compreso questo quando portavo la mia nipotina di 7 anni in piscina. Per ovvie ragioni, non potevo entrare negli spogliatoi delle donne, mentre le donne possono portare i bambini maschi piccoli nei loro spogliatoi. In quell'occasione ho assistito ad una discussione tra due mamme, perché una di queste non voleva che entrasse un bambino che per lei era troppo grande. Dato che le regole della piscina non dichiarano l'età dei bambini piccoli che possono entrare negli spogliatoi con le mamme, la discussione poteva andare all'infinito, ma ebbe ragione la mamma che contestava. Perché? Quale regola ha messo in evidenza la mamma contestatrice? Nessuna regola, come potrebbe anche non esserci una regola precisa per definire il pudore, il decoro e la modestia. Ma la mamma contestatrice si era resa conto che lo sguardo del bambino non era più innocente come prima. Coglieva l'immagine femminile e lei si sentiva oggetto di desiderio. Questo mi dice e ci dice che le donne sanno quando si vestono in modo da essere desiderate, e nessuna donna può contestare il fatto che gli uomini di fronte a un seno giovanile scoperto o ad un nudo integrale non hanno più lo sguardo innocente. Come hanno detto anche altri, la responsabilità degli standard morali in una società ricade sulla donna, perciò mentre gli uomini discutono sul lecito o illecito, la donna sorride perché sa quanta pelle scoprire. Mi sa che il maschio nel fare le leggi sia proprio un babbeo rincitrullito. Novembre 2007. Ellero.